Zot. Fulminati in azienda. Ragazzi, sono tutto orecchie. Ditemi come implementare il progetto antistress, il primo progetto per riequilibrare la vita privata e la vita professionale. Visto che siete stressati, ho naturalmente invitato a questa riunione il nostro super consulente PG, Pierluigi Paragone. Marco, scusa, te lo devo proprio dire. Riguardo alla tua decisione di fare questo progetto, noi non possiamo accettare... Ecco, brava, diglielo che non ce la famo, non ce la potevamo fare. No, no, non possiamo proprio accettare il nome che gli hai dato. È il nome? Ma sì, è così, non mi piace, è ansiogeno, è negativo, stress, ma che parola cacofonica. In effetti, anche dal punto di vista delle risorse umane, la parola stress evoca fretta, scadenze, stress, sì, insomma. Vabbè, ho capito, ma stiamo qui 2 ore a parlare del nome. Non portatemi problemi, voglio soluzioni. Io un'idea ce l'avrei, un nome diverso dal sapore classico, che dice, non dice, svela, non svela, dico, semplice e complesso. Lo dico. La Vie Rose. La Vie Rose. La Vie Rose. Ma chiedo scusa, ma che nome è? Ma a te, super consulente, piace? Piace, una parola grossa. Non certo, mi dire che non ha ti un, piace. Ha un suo perché. Ah. Un suo NCS, perché. NCS non ci siamo, è un nome vecchio, è datato, è lento. Sì, e poi... Forse è in francese, ma ecco. Certo, è chic, appunto, quindi, in francese. E quindi dobbiamo trovare una cosa moderna, fresca, leggera, raggiante, magari in English. Se volessimo una cosa moderna, fresca, raggiante, ma che inglobi l'idea della dottoressa Font. Potremmo chiamare il progetto antistress The Pink Life. Ma geniale. Wonderful, The Pink Life. Leggero, alleggerisci. Ma scusate, non è la traduzione. The Pink Life. Pink Font, Life, bello. Lo voglio dappertutto questo nome, a caratteri cubitali. Scusate se interrompo la festa, ma a parte il nome che è gagliardo, Pink, ma che se fa? Che se deve fa? Ma che se fa per cosa? Ce lo sapevo, non puoi fare una domanda che ti torna indietro. Hai fatto la domanda, datte una risposta. Ah, Pacco, indovina chi se deve smazzare il progetto antistress? Io, che sono il più stressato di tutti, di tutti. Non capisco, dottore, perché? Infatti non devi capire, Pacco, devi fare. Allora, rispondimi, Pacco. Sì. Che se può fare per lavorare meno, guadagnare uguale, essere più felici? Vabbè, sarebbe tante le robe, dottor, non so. Ecco, bravo, bravo. Allora, scrivimi tutto, mi fai una bella presentazione in PowerPoint con una bella animazione pinche. D'accordo, dottor, domani con calma, con serenità. Che domani? Non so manco se ci arriva domani con sto stress. Allora, centrifuga, raccontami un po' che cosa hai pensato di fare per questo progetto antistress, The Pink Life. Ecco, allora, ho preparato il documento e fatto una sintesi. L'originale su 200 slide, te vado a leggere. Allora, la gente dice che pensa meglio. Scusi, dottore, la gente, a dire il vero, sarebbe sì, bene. Sì, ho detto, allora, la gente dice che pensa meglio. Se dovrebbe avere azienda, la palestra, la tintoria, il dottore, la posta, i messaggi, lo psicologo, il ping pong, il biliardo, la PlayStation, il tapirulante. Ovviamente, questo per i momenti di tempo libero. Ecco, fantastico, ma dato che siamo qui per lavorare, tempo libero, nada. Appunto, ecco, e non essendoci tempo libero, la gente chiede più tempo libero. Bene. Una pausa pranzo più lunga, una pausina merenda, attaccare a lavorare più tardi e avere venerdì libero. Almeno il pomeriggio. Sì, ma ogni tanto, diciamo così, nel tempo occupato, la gente avrebbe intenzione di lavorare o no? Marco, noi abbiamo chiesto alla gente come fa per stare meglio, per avere più equilibrio, e queste sono le risposte, ci posso fare. Poi, mi scusi, dottor, ma la gente volesse avere un poco di tempo per far due ciacole, scambiare due parole. Scusa, Paco, per far che cosa? Come dicevo gli altri, fare due chiacchiere, che qua a molti che sembra che entra in ufficio deve venire in fabbrica. E invece dove siamo? A Disneyland? Dai, avanti, ragazzi, scrivere. In seguito alle pretese delle maestranze, il progetto contro lo stress The Pink Life è sospeso. Da domani partirà invece il progetto Pink Floyd. Se lavora con la musica. Colonna sonora del progetto Money. Te le do io le ciacole. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.